sia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare lo sangue con l'umanità. Colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Tutte le compagne e i compagni che seguono Radio Silo, dopo due settimane ripigliamo a fare la trasmissione diretta dal centro sociale Ianassa in ex asilo politico. È chiaro che, come dire, in questi periodi tra freddi glaciali, molte persone, molti compagni tra risultati positivi, è chiaro che bisogna ritornare alla normalità e cercheremo, vuol dire, tornare alla normalità politica anche noi. Questo dal punto di vista nazionale, è un dato nazionale, non solo locale. E proprio, che dire, proprio rispetto alla ripresa della nostra agire politico locale, nazionale, internazionale, vogliamo ricordare l'appuntamento di domani, 12 febbraio, che diciamo a livello nazionale ci saranno due manifestazioni, una a Milano e un'altra a Roma, per chiedere la libertà per il compagno Ocalan. E questa mobilitazione, questa manifestazione è stata indetta da varie associazioni curde, insomma, dalla Rete Kurdistan Italia, la Comunità Curda in Italia, l'Ufficio Informazione Kurdistan in Italia. Molte persone hanno firmato l'appello per la liberazione di Ocalan, come Zero Calcare. È bene ricordare alcuni dati che dal 15 febbraio del 1999 che il compagno Ocalan è isolato nel carcere di Imrali, un'isola carcere. È un uomo, è una persona, è un essere umano seppellito vivo, tanto è vero che ancora non si sanno notizie sue, anche perché gli è impedito anche di fare telefonata al fratello, e diciamo vi sono seri dubbi sul suo stato di salute. ma che è una cosa importante, ma al di là della salute è bene sempre ricordare che Ocalan è, diciamo, è la guida del popolo e delle comunità curde a livello internazionale. E tanto è vero che Ocalan è stato l'ispiratore del confederalismo democratico, che specialmente nei luoghi, nelle aree geopolitiche con cui noi parliamo, tra fondamentalismi islamici e fondamentalismi religiosi, le comunità curde rappresentano un riferimento laico e di civiltà, che noi potremmo dire anche modelli di socialismo moderno, libertario. E come tutti i popoli e le comunità laiche, come quelle palestinesi, ecco che i fondamentalismi, dove ci sono vari interessi economici, finanziari, energetici, scatta l'operazione genocidio. L'operazione genocidio da parte dell'esercito turco nei riguardi delle comunità curde e dell'esercito israeliano contro le comunità palestinesi. Cioè, allora ecco perché la ripresa dell'agire politico anche dal punto di vista internazionale, internazionalista, specie ora che forse qualche spiraglio di libertà si vede per la storia del Covid, eccetera eccetera, pensiamo che sia giunto il momento di riprendere ciò che anche nelle manifestazioni del C20 noi ci eravamo proposte come aria antagonista, non solo, quindi di riprendere le iniziative di solidarietà internazionalista contro i fascismi che nel Medio Oriente, tra la Turchia e Israele, questi fascismi imperano, dettano legge e hanno anche la copertura e la complicità del mondo occidentale. E questo è strettamente collegato pure alla vicenda, alla storia di cui noi andremo ad affrontare, che è quella che è stata nel il mondo con il fiato sospeso per la storia del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che o meglio dire tra l'Ucraina, gli Stati Uniti e la Russia, contro la Russia. È chiaro che, come devo dire, l'incerenza degli Stati Uniti in territorio russo, che vuole, come bene sappiamo, vuole mettere basi missilistiche, adesione dell'Ucraina alla NATO, che significherebbe veramente, ecco, questa sì, l'incerenza ucraina imperialista, nei confini, nei territori russi, tenendo conto che sia nelle aree circostanti l'Ucraina, vi è una forte densità di russofoli, cioè la lingua che si parla è il russo, le aree, per dire, nelle regioni del Donetsk, del Luhansk, sarebbe il Donbass, sono densamente popolate da persone di origine russa, insomma. E poi, come devo dire, le manovre, cioè quello che sta lanciando benzina sul fuoco è Biden, che non si smentisce, ogni giorno se ne esce con delle affermazioni proprio gravissime, come l'ultima: sarà guerra mondiale se si spara un colpo, e noi stiamo parlando di quello che è il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, quello che si presentò come il nonno pacifico, la faccia del nonno pacifico, insomma. Certo che tra Trump e suo predecessore Trump e il Biden in politica estera vanno a gara a chi, tuona e cerca di coinvolgere varie nazioni in una logica anti cinese, antirussa, in pratica l'anticomunismo. È chiaro che sulla Russia e sulla Cina ci sarebbe, diciamo, molto da dire, però è bene sempre ricordare che l'odio contro il comunismo, contro i comunisti, rimane sempre perenne nel cuore della mela e di tutti i suoi popoli e satelliti, nazioni satellitari, sia americani che facendo parte della NATO. Ecco, il problema è che è strettamente collegata la vicenda di Öcalan, la vicenda del popolo, delle comunità curde, la vicenda del popolo palestinese e di tutti i prigionieri palestinesi. Sono tutte e due collegate, sono tutte e due, diciamo, aberranti forme repressive contro, diciamo, chi si oppone a uno Stato, ai fondamentalismi, e che trovano la complicità, diciamo, proprio dell'intero popolo polo occidentale. Ecco, questo è il pensiero unico, insomma, questo è il neoliberismo, e questo è quello che è, diciamo, diciamo che nel pianeta Terra ci sta l'eterna spada di Damocle delle guerre, con annesse uso di armi nucleari. Ecco, abbiamo citato in modo molto sintetico la vicenda ucraina, ecco, perché poi il problema è proprio quello, insomma, nonostante che dallo stesso governo ucraino, diciamo, non venga posto tutto questo allarmismo, nonostante che la stessa dichiarazione di Putin afferma che non ci sarà nessuna invasione e sono esercitazioni, come devo dire, militari, è chiaro che inquietano, ma allo Stato, ecco, poiché l'America, gli Stati Uniti d'America hanno lanciato a livello planetario veramente un'aggressione da un punto di vista non solo verbale, ma anche di continui confronti muscolari militari, è normale che si è innescato un meccanismo dove, diciamo, la questione politica avviene attraverso la questione militare. Ricordiamo che gli Stati Uniti d'America hanno dislocato nelle aree attorno all'Ucraina, diciamo nell'Europa, in Europa filo americana, migliaia e migliaia di soldati americani, hanno cominciato a rifornire armi strategici all'Ucraina. Quindi allora è chiaro che, come dicevamo prima, questa crea, ecco, ci fa mantenere il fiato sospeso. Poi sentire parlare Biden, al primo colpo scoppierà la guerra mondiale, queste cose non ci fanno stare tranquilli. Quindi ecco perché non è tanto provocatorio la faccenda di dire se l'Ucraina invade la Russia. In termini politici, cioè gli Stati Uniti d'America tramite l'Ucraina stanno facendo opere di incidenza in territorio russo. E qua ritorniamo a quel che diciamo al nonno Biden. Quando noi, diciamo, cominciamo a porre, diciamo, molta attenzione sullo slogan "il ritorno dell'aquila imperiale nel mondo", che è bene ricordare, con il nonno Biden, questo non è un film di Netflix, ma e non è anche un risico, un videogioco, ma è una preoccupante realtà. È chiaro che, appunto, come dicevamo prima, tutte le vicende geopolitiche e militari che stanno interessando l'area dell'est europeo, ricordando un tempo dell'Unione Sovietica, ecco, come devo dire, ci stanno tenendo il mondo intero con il fiato sospeso. E noi, diciamo, a questi timori, a queste inquietudini, a queste preoccupazioni, contribuisce la quotidiana cioè il fatto che quotidianamente per un'ipotetica ed imminente invasione russa in Ucraina, ecco, stiamo assistendo a continui bombardamenti mediatici, agitazioni diplomatiche dei vari stati maggiormente rappresentativi dello scacchiere europeo, in primis la Francia, poi andremo a capire il perché la Francia si vuole diventare il punto di riferimento di questa crisi politica. Che è, diciamo, quel che è, possiamo dire, la Francia, e il problema è che in tutto questo, in questo clima, quel che si evidenzia è l'accodarsi dell'intero mondo politico atlantista europeista verso Biden, che è, ribadiamo, è più di un mese che minaccia la Russia di fortissime sanzioni economiche e poi specialmente negli ultimi giorni persino militari. Ecco, e quindi stiamo assistendo in questo periodo come, a come in politica estera il nonno pacifico Biden, che poi non smentisce i suoi predecessori, ecco, si sta ben guardando sempre in funzione anticomunista da non controvertire le strategie e le politiche imperialiste degli USA nello scenario internazionale. Ed è chiaro, noi potremmo, ecco, non sono bastate le continue destabilizzazioni internazionali geopolitiche derivanti dalla guerra del Golfo del 91, la testimonianza sono le macerie, gli esodi apocalittici di milioni di siriani, di curdi, afghani, pakistani. Ecco, il nuovo riordine mondiale, tra l'altro è bene ricordare, approntato nel G20 svoltosi in Italia, per ecco, siamo queste destabilizzazioni, diciamo, internazionali, sono cicliche, sono per ridefinire sempre l'egemonia Yankee, sempre attualmente in funzione anticinese, antirussa, e quindi sta determinando un contesto geopolitico internazionale che è, diciamo, è contrassegnato da grandi movimenti strategici, militari e finanziari. È chiaro che tutti questi movimenti cosa nascondono? Oltre alle, diciamo, alle visioni di carattere prettamente politico, l'accaparramento e il controllo delle storiche fonti energetiche, quali gas e petrolio, e poi alla faccia delle politiche green. Ed il controllo politico-militare dove tale aree, diciamo, dove, delle aree dove tale fonti non solo provengono, ma tutte le aree dove debbono circolare, gasdotti. Ecco, diciamo, questo accaparramento risulta essere perenne terreno di scontro e confronto muscolare militare che di fatto stanno a dimostrare che siamo in presenza di un conflitto mondiale che, seppur mai dichiarato, di fatto è in continuo essere e facendo gli opportuni scongiuri, sperando che non ci sia quel salto che sarebbe un qualche quel salto qualitativo dello scontro, che sarebbe qualcosa di drammatico e catastrofico. Ora, fra poco, cominciamo a dare un contributo musicale. Come l'acciaio resiste la città, strada. Dopo Stalingrado, che rimane sempre il nostro punto di riferimento storico, politico, culturale e anche di strategie. Ecco, che è alla base, perché è chiaro, l'imperialismo americano è un imperialismo non soltanto dal punto di vista politico-militare, l'uso politico-militare per il controllo e l'egemonia economica e finanziaria a livello mondiale. E vediamo che ecco, quello che siamo, sia la questione energetica come la ridefinizione dei confini, sempre in funzione anticinese russo, così come le influenze e le incidenze dei vari scacchieri internazionali, compresi il Mediterraneo, sta vedendo il totale assoggettamento dell'Unione Europea alle politiche imperialiste USA e della NATO e il ruolo della NATO. E come devo dire che diciamo questo assoggettamento si è reso sempre più evidente con, accendo una sigaretta, con l'elezione di Biden, che con lo slogan "L'America è ritornata", Biden ha fatto il suo ingresso a livello internazionale. Noi abbiamo gli atlantisti per eccellenza, in primis il nostro lo sciocco Renzi, che poi tanto sciocco non è, e in base anche a questa storia di Biden, ricordiamo che tramite questo golpe alla matriciana ha permesso Draghi, ultra-atlantista, ultra-europeista, massima espressione del Fondo Monetario Internazionale, della BCE, a guida del nostro, della nostra nazione italiota. E che quindi ecco, Biden ha accelerato anche in Italia questo cambiamento politico con Draghi alla guida. E che l'America sia ritornata, noi ce ne stiamo rendendo conto anche per la forte presenza nel Mediterraneo di un robusto dispositivo navale americano ed alleate, che è concomitante con l'aggravarsi appunto delle tensioni tra la Russia ed Ucraina, con la presenza di tre portaerei NATO, di tre portaerei della NATO, che sono, diciamo, sia dell'America, della Francia, portieri americane, una portiera americana, una francese e un'italiana. E che l'America, diciamo, nel Mediterraneo, è chiaro che per dire, tra l'altro è avvenuto un vero e proprio confronto muscolare aeronavale tra le due superpotenze, dove l'America e la NATO hanno messo in scena, drammaticamente in scena, un'enorme potenza di fuoco, in cui quel che ne esce, quel che si è, diciamo, è risultato essere molto evidente, è l'inquietante crescita militare della NATO. È bene ricordare pure che noi siamo da questo scenario, da questo teatro di confronto muscolare militare, sono state interessate anche le nostre coste. Le nostre coste sono state protagoniste teatro appunto di questo inquietante, chiamiamolo duello, confronto, scontro muscolare militare il 21 gennaio scorso, durante il transito per lo stretto di Sicilia del gruppo anfibio russo, che tra l'altro facendo parte di un ciclo di esercitazione nel Mediterraneo, tra l'altro annunciato dal ministro della difesa russo, che è stato tallonato dalla fregata norvegese Fridtjof Nansen, che è stata distaccata per l'occasione dalla scorta della portaerei americana USS Harry Truman. mentre veicoli specializzati antisommergibili decollavano da Sigonella per battere le acque circostanti in cerca di minacce sommerse. E in precedenza le medesime navi russe erano state scortate da unità NATO nel transito di Cibilterra. È chiaro che queste possono sembrare dei videogiochi, ma non lo sono, perché quando si dà questa immagine e si forzano queste immagini di potenze militari, il problema è un problema inquietante, insomma. Così, ecco, vicino alle nostre coste, insomma, ecco, ci stavano, che se facevano, i russi facevano un'esercitazione, quelle della NATO che li scortavano. Ci sono stati vari momenti di, diciamo, anche di quasi conflitto a livello aereo, sia in Inghilterra sia in cui veramente sono venuti a contatto gli aerei russi con gli aerei anche della NATO e degli americani. E è chiaro che il problema, quello che diciamo questa vicenda, il problema è che questo scontro militare non sta avvenendo a livello internazionale, perché, come abbiamo detto, quando diciamo Biden a livello internazionale lancia un appello ai suoi alleati in questa guerra santa contro la Russia e contro la Cina, il problema è che non è il confronto, anche diretto e indiretto, avviene anche in altre aree del pianeta. Quindi, diciamo, quando ci si confronta con i russi, un messaggio indiretto è anche verso la Cina. È la stessa cosa quando si avviene un confronto muscolare militare con la Cina, è un messaggio indiretto anche alla Russia. E abbiamo detto che questi confronti militari, questi teatri, scenografie militari, drammatiche scenografie militari, inquietanti scenografie militari, non avvengono solo nel Mediterraneo, ma si verificano anche nel Pacifico, dove Tokyo, è bene sempre ricordare, come Kiev, stanno per accettare l'installazione di batterie di missili a medio raggio americano sul suolo giapponese, per tenere sotto controllo la Cina e la Corea del Nord, proprio a riconferme, a insaldare il patto tra l'USA, tra gli Stati Uniti d'America e il Giappone. È chiaro, quindi, stiamo assistendo un Biden dalle alleati scatenato su tutti i fronti, e qua non poteva mancare il ruolo di Israele in funzione anti-Iran. Infatti, il 30 gennaio scorso il presidente israeliano Isaac Herzog, recatosi negli Emirati Arabi nella riconferma degli accordi di Abramo firmati un anno e mezzo fa, sta consolidando i rapporti di collaborazione in primis militare tra Gerusalemme e Abu Dhabi, specie dopo che a Abu Dhabi, dopo l'attacco dei yemeniti o Houthi con missili e droni nella zona industriale dell'aeroporto di Abu Dhabi. E guarda caso, uno di questi attacchi è avvenuto durante la visita di Herzog. È visto appunto il genocidio di civili yemeniti per i bombardamenti degli aerei degli Emirati, il principe ereditario Mohammed eccetera eccetera, la sintesi MBZ, vede di buon gradimento il supporto militare di intelligence israeliane, che tra l'altro già è in parte presente in terra emirata per gli addestramenti sia per gli aerei che per i droni. Ed è proprio sulla questione dei sistemi antidroni Shilohok israeliane che Abu Dhabi vorrebbe consolidare il rapporto con Israele, cioè quindi il che è un vero invito a nozze per i sionisti, in quanto sarebbero nei fatti inseriti nelle difese aeree di un paese a ridosso dell'Iran ed in un mare strategico come lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Ed è chiaro che, come dire, ecco, stiamo parlando proprio di uno scacchiere, cioè proprio di scenografie a livello internazionale in varie parti del mondo, per non parlare del Pakistan, caso strano, e che è un'area che sta proprio ai confini di territori russi, o filorussi, cinesi e iraniani. Quindi noi stiamo assistendo in questo caso strano, dopo, ecco, dopo il G20, ricordando sempre che diciamo in italiano, stiamo assistendo a 360 gradi a livello planetario tutta una serie di come devo dire, manovre politico, militari, finanziari in funzione anticinesi e antirusse. Allora è chiaro, è come se a macchio di leopardo gli USA, la NATO con i nuovi e vecchi alleati, ecco, quelli che si definiscono e gli esportatori della democrazia e difensori dei diritti civili nel 20, con nel mondo, con il G20 italiano, hanno ridisegnato, o meglio riconfermato, il sempre attuale ordine mondiale, possiamo dire di ordine, ma sempre l'ordine mondiale, dove l'Europa con la Francia e l'Italia e il Regno Unito, seppur quest'ultimo non facendo parte dell'Unione Europea, ma pur sempre alleato principe degli Stati Uniti d'America, ha acquisito un ruolo importante nella sudditanza al Patto Atlantico, come più spesso viene, diciamo, e tanto è vero che anche in questo momento di crisi russo-ucraino, Johnson si è distinto per la, come devo dire, per accodarsi alle minacce di Biden contro la Russia, minacciando sanzioni, minacciando interventi militari e via dicendo. Quindi ci sta questo bisogno cannibalesco da parte, diciamo, questo bisogno quasi cannibalesco proprio di aggressione, di salto di qualità contro, diciamo, la Cina e la Russia. Ed ecco che, come devo dire, stiamo vedendo proprio, ecco, stiamo assistendo veramente a un qualche cosa che è, come dire, uno scenario politico internazionale molto ma molto instabile. Noi sappiamo bene che poi a pagare di questa instabilità sono i popoli. E tanto è vero che in questo, come devo dire, in questo contesto internazionale, che è sia la Turchia che Israele, come detto, colgono l'occasione per continuare nella loro opera repressiva e, diciamo, genocida verso queste comunità, insomma. Cioè, ormai, ecco, siamo di fronte a queste logiche camorristiche di spartizione, diciamo, e di gestione del potere. Allora ecco perché, quando all'inizio abbiamo detto, è arrivato il momento di riprendere, insomma, l'agire politico internazionalista, come tra l'altro è legato ad anche altre tematiche di carattere nazionale, europeo, insomma. Quindi ecco perché non possiamo dormire sogni tranquilli, e diciamo, ecco, sperando che possiamo usufruire di qualche fase di più libertà per queste norme restrittive legate alla questione del Covid, noi dovremmo ecco, ricercare sempre di ricucire queste le fila a livello nazionale per determinare un vasto fronte di opposizione politico, sociale, sia per le tematiche di carattere nazionale che sul fronte internazionalista, e così come sulla questione ambientale. E niente, ora mettiamo, sempre funzionante imperialista, un altro pezzo musicale. giungere alla conclusione, ecco, stiamo assistendo proprio nel giro di almeno, ecco, caso strano, sempre coincide con il C20 svoltosi in Italia. E dobbiamo porci anche delle domande sul perché, diciamo, a livello di movimento di opposizione a questo C20, pur consapevole che si stavano determinando tantissime cose, di cui in modo sintetico l'abbiamo accennato prima, ecco, questo ci deve porre delle domande. In tutto questo scenario, ecco, quello che sta, diciamo, balzando proprio alla cronaca è il ruolo di Macron. Macron, ricordiamo che c'ha, allora, al di là che ci saranno le elezioni in vista, per cui l'accreditarsi a livello scenario internazionale, come devo dire, quale migliore occasione, insomma, specie in vista delle sue elezioni, delle elezioni in Francia. Il problema è che Macron è anche l'espressione di quel che sta succedendo nel Centro Africa con la Repubblica del Mali. E ricordiamo che il Mali era di fatto una colonia francese. Il Mali sta in una posizione strategica molto importante, cioè proprio nel cuore, nel Centro Africa. E diciamo, ma nel Mali, dopo il colpo di Stato, il nuovo apparato militare che guida il Mali ha ribadito la piena autonomia, cioè il popolo, intanto per anche le manifestazioni popolari hanno chiesto che non vogliono essere, cioè che debbono stare fuori i francesi, debbono essere, non debbono stare in territorio maliano, non so se ho detto bene. Allora è chiaro che ha un'altra gatta da pelare, e in questo contesto in cui poi è chiaro che vi sono anche delle presenze russe come preparatori militari dell'esercito, questo fatto inquieta molto. Inquieta molto la Francia, e che quindi indirettamente inquieta molto gli Stati Uniti d'America. È chiaro che, come dire, quindi anche questa, il fatto che Macron si sia posto come a diventare il riferimento della risoluzione della crisi franco-russo, non credo che non abbia posto sul tavolo del confronto con Putin la questione della presenza russa, seppur in diretta tramite agenzie, si chiamano agenzie, di esperti militari russi. È chiaro che, come dire, quindi, ecco, non stiamo assistendo a uno scenario internazionale che è, diciamo, è sempre volto alle continue destabilizzazioni. Quindi abbiamo nello Yemen che continuano i bombardamenti, i genocidi delle comunità curde, del popolo palestinese, abbiamo nella fortezza Europa un conflitto franco-russo, e poi abbiamo la questione della Libia, dove anche il ruolo della Francia, diciamo, non è che sia marginale. Anche là ci sta un confronto con i russi, con i turchi, che tengono i loro mercenari, quindi però dove è chiaro, tutti insieme appassionatamente, pur confrontandosi, pur scontrandosi, mantengono gli interessi e i profitti delle varie agenzie energetiche, delle grandi imprese lobby energetiche. Quindi siamo in uno scenario politico internazionale che è in continua, brutta parola, è in continua evoluzione, sperando che diciamo, ci si fermi a questi tipi di confronto di carattere scenografico e muscolare militare. Però la corsa al riarmo, noi lo stiamo denunciando da un bel po' di tempo, la corsa al riarmo, la corsa al nucleare. E quindi, ecco, il ruolo della Francia, ma anche il ruolo dell'Italia, E ricordiamoci che diciamo, anche l'Italia si è codata a fare delle forti sanzioni alla Russia in caso di invasione, perché mo sta uscendo fuori pure un'altra cosa, perché sono scendi i timori di colpe all'interno dall'interno della nazione ucraina, colpe politici dei filo, diciamo, dei filorussi. Quindi ecco gli scenari, la storia si ripete sempre. Allora ecco così il ruolo di Macron e il ruolo anche di Draghi, e tanto è vero che tra l'Italia e la Francia ci sta un patto politico di ferro diciamo ad essere protagonista nelle politiche europee e quindi anche internazionale. E la storia della questione della Repubblica del Mali, e anche l'Italia ha una sua presenza militare non ufficializzata, ma diciamo le varie flotte della NATO che diciamo stanno in quelle aree, flotte e esercitazioni e presenza di truppe militari, cioè lasciano desumere che l'Italia da un punto di vista come devo dire atlantista non lo è stato mai secondo a nessuno, perché l'Italia è una base aerea di per sé americana e della NATO, ma il ruolo dei nostri eserciti, che violando la Costituzione stando in più di 70 paesi dove ci sono conflitti militari, come devo dire, con Draghi il ruolo dell'Italia in un contesto internazionale diventa di un certo livello e di un certo spessore, tanto è vero, ricordiamo che a perorare la riconferma di Draghi al Presidente del Consiglio sono state tutte le diciamo dal Parlamento Europeo, Biden, tutte le come devo dire la banda occidentale e quindi ha perorato la riconferma di Draghi al governo. Quindi ecco, questo in sintesi, ma proprio in pillole, è una parte di quello che sta succedendo a livello internazionale. E quindi ecco cosa fare. Noi è sempre quando si arriva al problema che fare, tenendo conto dei contesti politici nostri italioti, tenendo conto anche delle nostre forze resistenziali, è chiaro che il compito nostro diventa sempre più arduo. Ed è chiaro che il nostro ruolo è di testimoniare, il nostro ruolo è anche di creare mobilitazione, il nostro ruolo è anche di controinformare rispetto a quel che diciamo le TV di Stato e delle grandi lobby, delle grandi catene editoriali, ecco, noi vediamo dalla Repubblica alla Stampa al Corriere della Sera che il loro filo europeismo e filo atlantismo è così spuderato, ma neanche un minimo dubbio, ma manco, cioè noi assistiamo che su tutto ciò che sta succedendo, dalle tematiche politiche internazionali, dalle politica anche interna, pure legata alla questione del Green Pass, Covid, non è, ecco, quel che è stato levato è proprio il senso del dubbio, è stato levato il senso del dubbio sulle violazioni della Costituzione, anche quello che è avvenuto, cioè man mano ci sono dei decreti che vanno a incidere proprio su alcuni aspetti della Costituzione. Ricordiamo che i padri della Costituzione, proprio perché il ripudio al fascismo, il ripudio alla guerra, hanno messo dei punti che sono così come il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, alla sanità, il diritto alle libertà individuali e collettive ed individuali. Ecco, vengono ogni giorno intaccate con la scusa di rimedi contro diciamo chi si oppone al Green Pass, chi vuole porre, e noi vediamo, quindi stiamo sempre vedendo che la sanità pubblica non se ne parla proprio più, di scuola pubblica non se ne parla proprio più, le scuole cadono, la gente viene negata il diritto a curarsi, e quel che va avanti è sempre il senso della militarizzazione del territorio. Basta pensare che noi abbiamo un generale degli Alpini che guida tutta la manovra alla guerra al Covid, anche questo uso della terminologia delle guerre, cioè, ci stanno abituando, così come anche se noi stiamo vedendo, insomma, l'abitudine a vedere esercito, militare, l'esercito armatissimi che girano e gironzolano per le strade, per il lungomare, per le strade cittadine, che si pongono i punti nevralgici della città, polizie, carabinieri, iperarmati. Chiaro che culturalmente lanciano dei messaggi che sono messaggi inquietanti, ecco perché, ecco, riprendere il concetto della questione forza in Italia diventa importante, perché ora si chiama Covid, ora si chiamano misure Covid, domani queste misure la paura saranno rivolte ad altro, questa è la faccenda. Ebbene, siamo dopo queste pillole per un invito alla riflessione, ecco, più che altro, e per un invito anche a una riflessione pure interna, ecco perché il G20 è ancora, è sempre di più attuale, queste piccole, queste cose, che piccole pillole di riflessione che abbiamo posto questa sera sono sempre al centro di quel che con il G20 è stato consolidato. E quindi ecco, è chiaro, il problema dal riordine mondiale alla questione ambientale, alla questione energetica, alla questione della privatizzazione, alla distruzione ambientale. Ricordiamo, ecco, poi tra l'altro con la Francia, che è il capostipite delle politiche nucleari in Europa, e l'Italia è accodata a lei, insomma, anche la Commissione europea, che ha individuato il nucleare come facendo parte delle fonti rinnovabili, è una questione veramente ancora di più inquietante. Cari compagni e cari compagne, ecco, per un invito alla riflessione su questa tematica, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutte e a tutti i compagni che seguono Radio Silo. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. La verdad de acero son. Y ahora